Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Mentre l'Europa si felicita per il fatto di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del pacchetto 20-20-20, 20% di rinnovabili, 20% di riduzioni di anidride carbonica al 2020, ci sono delle altre realtà che a livello locale puntano ad obiettivi molto più ambiziosi. È il caso del comune di Bolzano, che si è messo in testa persino di arrivare al traguardo delle emissioni zero nel 2030. Viene a dire cose da pazzi, oppure no, oppure si tratta invece di semplice buonsenso. Il giudizio lo darete voi ascoltatori, invece toccherà a Helmut Moroder il compito di convincervi che a Bolzano non sono completamente impazziti. Buonasera Moroder. Buonasera a lei. Allora, Helmut Moroder è da circa un mese il nuovo city manager della città di Bolzano ed è colui che ha ideato il piano energetico e climatico che vuole portare emissioni zero Bolzano nel 2030 e che, pensate un po', è stato approvato all'unanimità. Moroder, come nasce questa idea di Bolzano emissioni zero nel 2030? È nata dalla consapevolezza che l'obiettivo europeo o mondiale potrà solo essere raggiunto se tutti i comuni faranno la loro parte. Ma cosa vuol dire per noi? Sono obiettivi raggiungibili o non lo sono? E ci siamo subito accorti che in realtà le 10 tonnellate all'anno pro capite che emettiamo sono di anidride carbonica, per ogni cittadino, giusto? Di Bolzano all'anno. Esatto, che poi circa la media nazionale. Ci costa un sacco di soldi, è saltato fuori che spendiamo 160 milioni all'anno in energia che, utilizzando lo stato attuale della tecnica, della tecnologia, delle migliori pratiche, potremmo evitare. Insomma, siete partiti, invece che domandarvi quanto sarebbe costato convertire la città di Bolzano, vi siete domandati come prima cosa quanto avreste risparmiato come sistema città se fosse riusciti a portare termine a questa conversione. Esatto, guardi, poi stabilito che spendiamo un sacco di soldi e riteniamo una buona parte di questi assolutamente inutilmente, abbiamo detto, allora vuol dire che noi quei soldi li abbiamo a disposizione o li avremo a disposizione per migliorare il sistema città dal punto di vista dei consumi, e non sono soldi aggiuntivi che ci servono, sono quei soldi che in ogni caso stiamo spendendo oggi acquistando energia. Ci sono tre filoni, se non sbaglio, chiari, identificati, su quali andrete ad agire, che poi possiamo provare ad analizzare separatamente. Sì, i tre filoni sono gli edifici, il consumo energetico degli edifici, il settore della mobilità, sì, e i consumi energetici elettrici complessivamente produttivi terziari ed anche dell'abitazione. D'accordo, d'accordo. Allora, partiamo dalla riqualificazione energetica degli edifici. Che obiettivo intanto vi proponete di raggiungere? Noi lì ci diamo l'obiettivo di poter ridurre di circa 2/3 i consumi su tutto il nostro parco edilizio della città. Se noi riuscissimo a portare in casa clima B, da noi vuol dire un consumo di non più di 5 metri cubi di gas per metro quadro anno, sì, oggi la media è intorno ai 25, sì, diciamo, se riusciamo a fare questo, noi ridurremo la spesa in acquisto energetico in gas di 42 milioni di euro città, all'anno, certo. In città. Quindi vuol dire che possiamo spendere per 20 anni 40 milioni di euro in queste attività, che vuol dire lasciare in città questi soldi invece di usarli per acquistare, importare gas. E quando dite lasciare in città si intende per esempio nelle mani degli artigiani che dovranno fare queste opere di efficientamento energetico. Esatto, può immaginarsi quante imprese, quanti tecnici, quanti artigiani avranno lavoro in città per 20 anni solo per metterla a posto, senza che questo debba richiedere ulteriori finanziamenti. Noi spostiamo solo i soldi dall'acquisto di gas in risanamento. Ecco, detto così però sembra tutto facile. Se consideriamo il sistema città i conti tornano, però in realtà il sistema città è formato da degli individui, da dei singoli cittadini che non hanno sempre interessi coincidenti con quello del sistema. Ecco, un esempio è proprio quello dei condomini. Come fate a convincere il proprietario di un condominio a investire del denaro per far risparmiare i suoi affittuari, la gente che abita nel condominio? Noi dobbiamo trovare il sistema per far sì che al condomino l'operazione non costi. perché basta un condomino che dice io non li ho i soldi o non sono disponibile vista l'età o altri motivi, allora non si fa nulla. Certo. Quando diciamo non deve spendere di più si intende in questo caso però la somma dell'affitto più i costi energetici che già sostiene, la bolletta storica in pratica. Esatto, la bolletta storica. Ora se il condomino ci abita lui, il proprietario, il problema è minore. Se è affittato invece bisognerà pensare a un affitto di una casa calda. No? Ah, ecco, perché questo è un concetto interessante, cioè? Cioè, che io ti affitto la casa, se tu oggi spendi 400 euro al mese in più per riscaldamento e questo si aggiunge al prezzo dell'affitto dell'appartamento, sì, in futuro tu come inquilino pagherai la stessa cifra, però incluso il riscaldamento, perché io proprietario devo usare quei soldi per ammortizzare l'investimento. Cioè in pratica avete trasferito, o trasferireste con questo approccio, l'interesse a fare efficienza energetica dall'inquilino al proprietario dell'immobile, o sbaglio? Esatto. Come pensate di convincere i proprietari degli immobili a partecipare, diciamo, a questa operazione? Ma sicuramente dobbiamo intervenire sugli amministratori dei condomini. Noi vorremmo mettere loro a disposizione dei progetti tipo per singole tipologie di fabbricati, dai quali risulti che con un intervento ottimizzato che noi li proponiamo i risultati ottenibili e il risparmio realizzabile. In questo modo loro hanno uno strumento molto importante e convincente per le riunioni condominiali, che potrebbero veramente accorciare di molto i tempi e dare a loro buoni argomenti. In pratica gli fate l'audit energetico, una specie di audit energetico, diciamo, standard. Esattamente. Per oggi ci dobbiamo fermare qui, però ritorniamo domani su questo tema di Bolzano a emissioni zero nel 2030. Buonasera Moroder. Arrivederci, buonasera. Buonasera a tutti, l'appuntamento è per domani.